L'uomo beffardo. Chi è il beffardo? Non sono certamente io e neppure tu. Il beffardo è sempre l'altro, perché né a me né a te piace appartenere a questa categoria. Il beffardo si può trovare ovunque, sul lavoro, in casa, tra gli amici o nella comunità alla quale apparteniamo. Il dizionario definisce il beffardo persona che negli atti o nelle parole mostra derisione e scherno, spesso cinico e sarcastico verso persone e cose. Beffare significa ridere di una persona o una cosa, non prenderla sul serio, burlarsene, mostrare disprezzo o disinteresse nei suoi confronti. Secondo questa definizione, anch'io a volte mi scopro di comportarmi come un beffardo, e forse anche tu. Ma la domanda più importante è forse chiedersi chi è il beffardo secondo Dio. Così si esprime la scrittura. PR 21 e 24. Il nome del superbo insolente è beffardo. Egli fa ogni cosa con furore di superbia. La caratteristica del beffardo è dunque la superbia, una superbia arrogante, provocatoria, ardita, offensiva. Superbia, questa, che spesso si mostra fin dall'infanzia. PR 13, 1. Il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Il figlio che non ascolta i genitori o pensa di saperne più degli adulti rientra nella peggior categoria che esista. Ho presente ancora una conversazione fatta con mio nipote che voleva fare nuoto per un problema di salute. Pur riconoscendo che questa disciplina ha i suoi vantaggi, ritenevo opportuno prima fare una visita da uno specialista. Poiché non vi era modo di convincerlo, lo fermai e dissi: Vedi Simone, tu hai la tua convinzione, frutto della tua conoscenza ed esperienza di solo 9 anni. Tuo nonno ne ha molto di più e ha molto più esperienza. Non ritieni opportuno che lui ne sappia più di te? Egli ne fu convinto, ma quanti ragazzi, nonostante tutto, non si lasciano convincere? Ricordiamoci che il comportamento dei bambini rivela molto di quello che saranno da grandi. Infatti sta scritto, PR 20 e 11, anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta. Quello che può consolare però è che beffardi si diventa, non si nasce. PR 22 e 15, la follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Per natura siamo inclinati a diventare beffardi, ma la correzione evita il peggio. Il beffardo è colui che non ascolta rimproveri e vuole ad ogni costo realizzare i suoi malsani obiettivi. L'istruzione e la correzione sono strumenti indispensabili per maturare, altrimenti vi è un severo giudizio. Si diventa stupidi, corrotti, ci si smarrisce e alla fine se ne portano delle amare conseguenze. PR 10 e 17. Chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso? Viviamo in un'epoca dove i giovani hanno la tendenza ad essere beffardi, giovani che non solo pensano di avere una marcia in più, ma si comp... E per questo i giovani di oggi sono permalosi ai rimproveri e dei quali, di tanto in tanto, la cronaca annuncia la fuga da casa. O addirittura il suicidio solo perché sono stati ripresi dai genitori. Molti giovani danno poca importanza alla riprensione e altrettanti genitori ritengono inopportuno riprendere i loro figli. Eppure, la parola di Dio si riferisce spesso alla riprensione, e il popolo italiano, autodefinendosi cristiano, dovrebbe rifarsi ad essa per ciò che riguarda il proprio comportamento. Della riprensione si smarrisce. PR 12. 1. Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. PR 15 e 10. Una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Chi odia la riprensione morirà. Ebi 12, 7 a 8. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Non accettare correzione è segno di orgoglio, ma chi l'accetta è onorato e benedetto. Ebi mezzogiorno e 11. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. PR 13 e 18. Miseria e vergogna chi rifiuta la correzione, ma chi dà retta alla riprensione è onorato. I difficili problemi dei giovani di oggi, la maggioranza delle volte, sono prodotti dalla loro mancata accettazione di correzione e riprensione da parte dei genitori e dei... La nostra società ha bisogno di rivalutare lo strumento della correzione quale scuola di vita. Purtroppo questo grido spesso cade nel vuoto perché gli stessi genitori a suo tempo non sono stati educati alla scuola della disciplina. E chi non ha imparato la disciplina, come potrà saper disciplinare? È molto difficile andare d'accordo con il beffardo. Anzi, secondo la scrittura è impossibile. PR 15 e 12. Il beffardo non ama che altri lo riprenda, egli non va dai saggi. PR 9, 7. Chi corregge il beffardo si attira insulti, chi riprende l'empio riceve affronto. Dio invita a correggere il prossimo con amore, ma è un compito che non si può svolgere con tutti, perché il beffardo insulta chi lo riprende. È dunque normale che la scrittura affermi. PR 9, 8. Non riprendere il beffardo, per evitare che ti odi, riprendi il saggio e ti amerà. Devo ammettere che non sempre sono stato accorto, perché a volte ho ripreso dei beffardi e mi sono creato dei nemici ricevendo anche degli insulti. Ho imparato a mie spese che non è possibile far notare gli errori a chi ha uno spirito orgoglioso o deride chi lo riprende. Perciò con il beffardo ci è un solo comportamento. PR 19 e 25. Percuoti il beffardo, e l'ingenuo diventerà prudente. Riprendi l'intelligente e imparerà. La scienza. PR 21 e 11. Quando il beffardo è punito, l'ingenuo diventa saggio, e quando si istruisce il saggio, egli acquista scienza. PR 22 e 10. Caccia via il beffardo, se ne andranno le contese, e cesseranno le liti e le offese. Il beffardo va punito, percosso e cacciato. I verbi, oltre che essere presi alla lettera per i bambini, si riferiscono all'atteggiamento che deve essere preso con le persone adulte a livello verbale e comportamentale. Nel libro degli Atti leggiamo che quando l'apostolo Paolo fu beffato da alcuni, se ne andò per la sua strada. 17:32-34. Ecco dunque l'inevitabile fine del beffardo. PR 14, 6. Il beffardo cerca la saggezza e non la trova, ma per l'uomo intelligente la scienza è cosa facile. Il beffardo rimane ignorante, non comprendendo la parola di Dio e la vita stessa. Perciò porterà le conseguenze del suo comportamento. PR 9, 12. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. Il beffardo avrà sofferenze di ogni genere, come il popolo di Israele fu condannato duramente all'esilio per aver disprezzato i profeti. 2 CR 36, 15-16. PR 24, 9. I disegni dello stolto sono peccato. Il beffardo è l'abominio degli uomini. Infine, il beffardo diventa lo scarto della società, sarà insopportabile a tutti, sarà compatito, sopportato. Chi non conosce simili persone? Vediamo ora la lezione che vi è da imparare da queste riflessioni. Ancora una volta Dio non ci presenta la persona del beffardo fine a se stessa, ma ci vuole insegnare qualcosa di più profondo. Ecco due lezioni che dobbiamo imparare. La prima è che non si può ingannare Dio. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Ga 6:7. La prima lezione che impariamo è che possiamo ingannare gli uomini ma non Dio. Anzi, sarà Dio stesso a beffarsi di coloro che pensano di beffarsi di Lui. Lo dice espressamente nel libro dei Proverbi. Poiché, quando chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione e non ne avete voluto sapere, anch'io riderò delle vostre sventure e mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. PR1:20:33. Parole dure, ma non si possono ignorare. Dio non ascolta il beffardo anche quando si trova in grande difficoltà. Lascerà che egli porti le conseguenze delle scelte che ha fatte. La seconda lezione che dobbiamo imparare dal beffardo è che Dio è misericordioso con gli umili. Custodiamo nel nostro cuore questa preziosa verità. La maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio, ma egli benedice l'abitazione dei giusti. Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. PR 3:33-34. Non solo Dio non ascolta il beffardo, ma a volte Dio lo tratta come lui viene trattato. Chi si beffa? Del messaggio di Cristo, a sua volta, viene beffato da Dio. Però chi trova la sua giustizia? Esclusivamente nell'opera di Cristo, Dio gli è amico e compassionevole. Noi abbiamo bisogno della grazia, per essere amati e benedetti, perché non abbiamo nessun merito. Perciò se siamo umili, possiamo ricevere ogni benedizione da parte di Dio. L'umiltà ha sempre toccato il cuore di Dio. L'umiltà disarma Dio. L'umiltà fa cambiare i piani di Dio. Perciò, deridere, schernire o essere cinici o sarcastici nei confronti della riprensione del messaggio del Vangelo non porta nessuna utilità, mentre l'umiltà, cioè uno spirito di ascolto e di obbedienza a meno, è l'atteggiamento prezioso e raro che conduce ad una vita felice e alla fine alla vita eterna. Gennaio 2007. Ellero.